o la parola se ne va in un'altra direzione? Ti dico che ti voglio bene, ma in realtà non ti voglio bene. Dico questa bella parola, ma non c'è la vita di quella parola in me. È come avere tanti mattoni di cui ognuno ha una direzione diversa. Allora c'è la disarmonia. Però, nel momento in cui noi entriamo nella divina volontà, diciamo: Gesù, io, la mia disarmonia, la mia piccola armonia umana la voglio fondere nella tua armonia divina. Voglio acquistare l'armonia divina. Domanda: facendolo nella divina volontà a nome di tutte le creature, possiamo riportare questa armonia, questo equilibrio in tutto il creato? Risposta: certo! C'è un passo meraviglioso del volume 14 dove si parla dell'equilibrio, in cui Gesù dice: l'equilibrio è ordine, somiglianza, e poi: vieni tu nella mia divina volontà a equilibrare la squilibrata umanità. Fantastico, bellissimo. Nella mia divina volontà, vieni a trovare questo equilibrio. L'equilibrio di tutto, ad intra e ad extra, e tu, girando dappertutto, verrai a equilibrare l'umanità squilibrata. Domanda: ma anche il creato, gli animali, tutto ciò che Dio ha creato praticamente? Marina: loro soffrono per lo squilibrio dell'umana volontà, ma loro di per sé non sono squilibrati. Dice Gesù a Luisa: guarda il creato, tutto è armonia, tutto è equilibrio. Se poi noi andiamo a svuotare 4 navi di greggio nel porto di Napoli, il problema allora è nostro. Se poi noi al Big Bull, a questi cani bellissimi, a queste creature bellissime gli mettiamo le catene e li alziamo ad abbaiare e poi questi si comportano con ferocia, allora il problema non è il cane, il problema è nostro. Lo stesso vale anche per le fusioni delle razze e delle cose che si fanno, tutta la nostra manipolazione del creato. Però il creato sta sempre nella volontà di Dio, ci richiama alla volontà di Dio. Anzi, ci richiama. Guardiamo le nubi che ci richiamano all'armonia, all'equilibrio, e la creazione sta lì soffocata. Anzi, in un passo del volume 20 o 19 dice: l'agonia della divina volontà delle cose create. Domanda: ma anche nella manipolazione dell'uomo? Riportare l'equilibrio, l'ordine, l'armonia in tutte queste cose terribili che l'uomo sta facendo. Risposta: in tutto. Registrazione automatica a cura di divinavoluntas.it